Qual è la vocale? Aspetta, Teresa, c'è stato un passaggio di pochi secondi che non ti si è sentito, diciamo, prima di No, questo. perché sogno di fare anche questa mamma, che si confidava ieri con le lacrime agli occhi, e avere un'altalena nel parco di pianura per il figlio disabile, perché lei ha 3 bambini, di cui uno disabile. Se gli altri due vanno sull'altalena, il terzo non ci può andare, perché l'altalena per il disabile non ce lo sai quanto costa un'altalena per il disabile, Gennà? Costa Quando 2.000 euro. C'è 2.000 euro. Cioè stiamo proprio... Cioè, proprio vedi, sono queste le cose che vanno cambiate. E io poi mi sono preoccupata di un altro problema. Ho detto, vabbè, 2.000 euro possiamo fare pure una colletta e la compriamo, ok? Per realizzare il sogno di una persona. Il problema è poi quando il parco non viene chiuso e viene vandalizzato. Perché se sicura lei, va sicuro, non vandalizzerà. Ma Giù le infatti. perché vedi c'è proprio questo cattivo pensiero, questa diseducazione capito? Di Certo. farsi vedere dalle suole, dalle cose. Voi che ne pensate? Ma può essere un'idea, magari facendo partecipare pure il gruppo di pianura a questa cosa, organizzando, che ne so, a specie di pizzate come magari un'altra cosa, che ne so, un altro È tipo di... vero, lo sai, non ci avevo pensato al fatto della pizzata, che proprio mi è dispiaciuto tantissimo non esserci, ma purtroppo era un periodo in cui stavo veramente presa dalla questione del bambino, Gennaro lo sa, cioè è stata una cosa troppa Però, bruttissima. Teresa, diciamo, io su questo fatto qua, cioè, voglio dire, manterrei una cautela, ma sai perché? Per una questione soprattutto di tutela riguardo proprio alla tematica, hai capito? Cioè, perché nel momento in cui, per quanto un evento, diciamo, anche di tipo benefico, va sempre bene, però nel momento in cui, siccome che poi dopo siamo anche, tra virgolette, Diciamo ancora. in un periodo non lontano, per quanto riguarda le elezioni, cioè non ci vuole nulla, Gennà, uè deve Fabio? essere allontanato un attimo. Ho capito Fabio, dicevo così, praticamente anche questo fatto, diciamo, di legare questa giornata, insomma, che c'è sulla disabilità ad un possibile, diciamo, evento come insomma è stato fatto di recente a scopo benefico. Scusatemi ragazzi, ma mi No, ero distratta di cose. dicevo così, Teresa, stavo dicendo ai ragazzi, anche l'iniziativa di voler legare un eventuale evento come magari anche suggeriva Antonio, no? Tipo questo qua che è stato fatto, diciamo, di recente, però legarlo alla tematica della disabilità in quell'evento che, diciamo, si deve fare del 3 dicembre, No, non è vero, è troppo presto. Io ti siccome che dico, voi mi secondo me il tavolo della disabilità siccome che voi mi va insegnate vicino che a non questo comitato che si sta formando a scuola di no, ti Piano, voglio dire, per Teresa, una cosa prettamente, diciamo, scolastica, che coinvolgerà tutte le parrocchie di certo, Valpiattura e tutte le no, scuole. ma io voglio dire, siccome che qua le persone impiegano molto molto poco a strumentalizzare una situazione del genere, allora io invece ci tengo più a che se bisogna dare risalto a questa problematica, cioè la facciamo nel contesto anche proprio al di fuori, cioè di inserirci come una situazione, diciamo, politica di movimento, perché comunque la prerogativa comunque del nostro gruppo è sempre stata quella, comunque, diciamo. Cioè, non utilizzare come canale di comunicazione Es l'età. esatto, no, ma neanche, no, ma neanche questo, ma neanche per questo fatto qua, Fabio, dicevo proprio, cioè, No, e quindi tu alla fine sei libero di proporre qualsiasi cosa quando hai fatto una cosa del no, genere. voglio dire, perché magari se noi andiamo a legare, cioè, questa situazione, diciamo, di questo evento che vuole fare la scuola, no? Inserendoci noi come gruppo indipendente che tratta la tematica della disabilità, però invece poi dopo vorremmo fare vorremmo agganciarci ad un ipotetico evento anche a scopo benefico, cioè qua non ci impiegano niente a fare 2 più 2 fa 4 e a strumentalizzare No, ma penso che Teresa parlava di due cose distinte e separate. ho Pre capito. evento con la nazionale, le vuole inserire il video. Sì. No, e quella Il cosa della discorso che caccia facevano massivo le ragazzi da facciamo Altamira costruire le pure, scuole. ah, ho capito, ah, voglio dire, c'erano Voglio soltanto fare erano due presente discorsi separati, ho capito. il fatto che è vergognoso, cioè che un bambino non. C'è un genitore, c'è il sogno più grande di un genitore, di Certo. un figlio, che ha un figlio disabile e che lo configlia da in gobba un'altalena. Normale, cioè Cioè forse ragazzi, abbiamo questo fatto è fatto drammatico, cioè per me è drammatico. Mo che a me mi strumentalizzano, o quando pensate mi strumentalizzano, a me me lo porto proprio. Però il tavolo della disabilità se prende una piega diversa, cioè nel senso, poi voglio un 5 stelle, che a me fa, ci faccio perché sono 5 stelle. No, Teresa, no, Gennaro no, no, no, no. pensa che parlava di una questione diversa. La strumentalizzazione che lui dice non è tanto l'evento che tu vogliamo proporre a scopo benefico e quant'altro. E se tu lo proponi all'interno di questi gruppi sociali che hanno creato loro e che hanno obbligato ad utilizzare, che è il CAF, per la fine loro si sentono messi in mezzo e dire non Ma ci quando avete mai? capito Io voglio, l'idea, non questa cosa la avete capito. voglio fare col tavolo della disabilità, perché io so che attorno al tavolo della disabilità ci sono delle persone che si interessano veramente al problema della disabilità. Se lo stai Angelo Rubinstein mettendo a Signo, Francesco sì, Santoro di Sant'Antonio Abate, d'accordo, Orfeo e quello sto Santa dicendo, Torre cioè Annunziata, l'importante cioè, però è che lo porti fuori da questa tematica. state Non è ovvero un problema, se vissuto la pizza sociale che fa fine a scopo benefico, hanno fatto un caso di pazzo. Lo ripetiamo se Ecco, e esiste. questa cosa non me ne importa proprio, io non gli voglio dare proprio, proprio per questo te l'ho detto, cioè la gente è talmente stanca che anche il Movimento 5 Stelle non lo conosce nemmeno, ma è stanco prima del tempo, cioè capito? Allora queste persone veramente non hanno più speranza, allora cominciamo a dare una speranza, cioè io ho potuto ragionare sul fatto che il tavolo della disabilità è un tavolo, attorno al tavolo della disabilità comunque si sono sedute le persone veramente che si sono sposate con questo problema, ok? Cioè, non è un fatto, è una cosa che cammina parallelamente al MITAF. Poi voglio dire che ci voglia partecipare anche il gruppo di pianura, ecco, vedi, se tu ci butti dentro il gruppo di pianura, più può essere strumentalizzato, che stanno facendo con te, purtroppo. Cioè, io quello che mi interessa è che siccome noi siamo andati a Allora, prendere io una politica. ragiono che non butti dentro il tavolo, non butti dentro il gruppo di Verona, tu butti dentro le persone che sono interessate a questa tematica, a questa iniziativa. Bravo, cioè a me questo Quindi non devo interessa. parlare di gruppo che inserisci, il tavolo che inserisci, ma di persone che sono invogliate a fare questa iniziativa. Bravo, cioè nel senso che io voglio, cioè secondo me il fatto per esempio di fare questa provocazione di mettere il politico sulla carrozzina, voglio dire, cioè può essere eletto da come vogliono loro, però guarda che è una bella provocazione. Perché nel momento in cui lo stesso assessore alle politiche sociali fa l'assessore alle politiche sociali, ma non si rende conto di che cosa significa per un disabile camminare a pianura, ma come camminare a Poggio Reale, come camminare a. Cioè, io dico pianura perché io la insegno, è lì che si è posto il problema. E lì c'è tante cose. Il mio alunno non le ha potute fare perché era. Cioè, vuoi andare a scuola? Cioè non siamo riusciti in tempo, in un anno e mezzo, ad avere il pulmino che lo andava a prendere a casa. C'è un anno e mezzo, c'è la burocrazia, ma lascia perdere, io me lo sono andato a prendere io, ok? E poi la mamma e il padre l'hanno accompagnato quando potevano, ci siamo sempre accordati affinché lui venisse sempre a scuola. Però c'è la burocrazia, ha voluto che il bambino non c'è più. E il pulmino della Napoli sociale non è mai venuto a suo figlio a casa. Un anno e mezzo. Mamma mia. Cioè, mi hanno Ma vuoi messo sapere un anno un'altra e mezzo. cosa che si è avuto di Napoli sociale, Teresa? Tieni Che è presente un che siamo in contesto. registrazione, però, eh? La sociale. È un posto di. È Senti, no, dico per dirti che comunque alla fine io ti parlo di un fatto concreto. cioè io ho fatto la registrazione e mezzo. Allora, se ci vuole registrazione, un contenitore di voti del tavolo sociale, come lo è Cisco. Sono tutte e due le cose. No, ma uno è passato per fare possibile. Allora, ma a prescindere dalla politica, Fabio, voglio dire, ma ti pare possibile che hanno creature per avere una cosa normale che si dovrebbe avere il giorno dopo, devi aspettare, non sappiamo. Ma Teresa, vuoi sapere una cosa? Io il pulmino di Napoli sociale l'ho visto pianura, che girava pianura. Lo so, prendi anche altri battisti. Ma è un gruppo privato di Napoli sociale. No, no. Ma è male, una partecipata, il 70% del comune, 40% di una SPA che mi ricordo Italia Servizi, non mi ricordo come si chiama SPA. Comunque costa al comune di Napoli la bellezza tra i 6 e gli 8 milioni annui, che mi sono scaricato una cosa del 2012-2013 di accordo con loro, cioè sono due strutture oltre che fanno questi servizi sociali. Comunque sono tutte persone che sono state inserite tra disoccupate e quant'altro l'amministrazione sta Napoli sociale. Qui ci sta di tutto e di tutto. Sono fatti dei voti, praticamente. Ciao, adesso ma il problema, cioè capito a me, poi di tutte queste cose. No, perché sai, si è fatto così, ne pazzo, perché se ne mangi il suo vero, ce ne vuoi così. E quindi è rimasto il tuo posto, e ci hanno unito il Cisco, per poi si è imparato dei magistri, il Cisco, presidente, che pure l'origine pregiudicata e quant'altro. Cioè io ad oggi, voglio dire, già per me la tematica della disabilità era una cosa fondamentale, perché in tanti anni ho fatto l'insegnante di sostegno, ne ho viste di cotte e di crude, e per me la disabilità, poi dopo di che ho trovato Gennarina nella mia vita, e quindi il maledetto giorno che l'ho incontrato, ancora di più mi ha fatto vivere questa disabilità con questa grande voglia che loro hanno di insegnarci, di vivere, di essere 100.000 volte meglio di noi. Ok? Ma oggi, ad oggi, che io non sono riuscita, nonostante tutto il mio impegno, a dargli una parvenza di normalità, no, a un bambino che oggi non c'è più, cioè oggi a me non me ne importa niente di sciul, cioè per me la disabilità deve essere centrale. È chiaro, perché non è possibile, non è possibile. Io ho vissuto un incubo soltanto per farlo scendere da Roma e non ci sono riuscita. Perché per la famosa assistenza domiciliare di cui parlava Rosario Napolitano, sì. Ok? Cioè praticamente il bambino Gesù non mi voleva lasciare, cioè non ci ha lasciato il bambino tornare a Napoli, perché si doveva garantire che il medico di base doveva dare la sua, si doveva avere l'impegno di garantire l'assistenza domiciliare, doveva parlare con l'altro, doveva avere la cosa, tutto si è fatto burocratico e sabato a Napoli. C'erano questi genitori da soli, lasciati a Roma, io è una cosa che non mi perdonerò mai. E credimi, ho fatto di tutto, chiamai a Imma di Lorenzo, a Marco suo. Cioè, non deve essere il medico di famiglia, non poteva essere stesso il pediatra che lo segue. No, assolutamente, spero che non ci dovevamo garantire un'assistenza H24, ma con la... Cioè che si doveva assumere la responsabilità il medico sfatticcia, cioè il pediatra. Scusa, ma la responsabilità come medico ce l'ha il pediatra, non il medico della famiglia. Il medico di te, no, quello della mutua, il pediatra della mutua. Cioè, ma poi ti racconto questa cosa, cioè che è attente. Cioè tu da chi numeri che ti agli era una tragedia con McKellar, perché 8 anni non è una tragedia, è più. Cioè, capito? Non è. Cioè non la so definire questa cosa, capito? Cioè, il genitore si era preoccupato e chiamò un pediatra. Cioè, ma allora voglio dire, dove vogliamo andare? Allora questo deve essere centrale, cioè disabilità, il welfare, devi avere un ruolo, ma proprio centrale. Esatto, il fatto del collegamento con i medici è una cosa che ci hanno mangiato negli anni, ti dico io, 2005-2006, che ci giravano i gestionali per le ricette sia per i medici pediatri che per i medici generici. Questi qua dovevano essere pagati per informatizzarsi. Questi signori dovevano addirittura, si potevano mettere come medicina in rete, lo Stato pagava per ogni paziente che loro tenevano a casa. Sto dicendo, quindi la situazione veramente va affrontata seriamente, perciò le dico, questa cosa che è partita da questo fatto che ci ha scosso profondamente, io perciò vorrei il tavolo a prescindere il tavolo della disabilità accanto. Poi chi si vuole unire si unisce, amor di Dio. C'è quello che tiene di bene il movimento e vita perché siamo cittadini. Prima di essere... Scusa, lei si sia l'angelo di Lo so, ragazzi, solo che io vi devo lasciare. Mi sono aggiunto, sono riuscito a ricollegarmi qua. Ragazzi, però io vi devo lasciare perché devo andare a prendere mia figlia. Sì, senti, Teresa, allora, eventualmente, no, diciamo, rimaniamo anche un po' in compagnia con Angelo, poi... aggiorna pure un po' Angelo di questa situazione che... Certo, no, volevo dirvi questo, poi dopo, eventualmente, se mi fate sapere voi, se vogliamo comunque fare anche poi dopo questa prova... eventualmente con Google Hangout se... la facciamo fare pure più tardi. Non ho capito, Teresa, la possiamo fare più tardi domenica, pure più tardi noi la possiamo fare. Sì, hai ragione, oppure anche non so, pure come volete voi, ragazzi. Io non... anche mi dovete dare il tempo, un'oretta e mezza, perché devo andare a prendere mia figlia. Beh, allora Teresa, vieni conto, mo sono le 7, penso che magari, non so, forse ci intratteremo, credo, un'altra mezz'oretta, poi forse anche un poco, perché anche gli altri amici... Non di più. Noi magari saremo fino alle 7:30, poi magari questo fatto di volere provare Google Hangout, se voi siete d'accordo potremmo magari sentirci, non so, nella mattinata di domenica, cerchiamo, tipo, voi ci intorno... Intorno verso le 10, le 11, se state a casa, ci sentiamo un attimo così tramite la messaggeria, ci colleghiamo e cerchiamo di fare un poco questa prova con Hangout. Se è una cosa fattibile, altrimenti poi io scrivo alla Expeditrice, Expeditrice, creare un account Skype a Luigi, perché se ci sono eventuali problematiche. Ma comunque... Vai Teresa, senti Teresa, ci sentiamo anche per più tardi, che in modo do anche io uno sguardo per confermarci per domani, insomma, se hanno cambiato sta location o no, magari che ti faccio sapere per venirmi a prendere eventualmente. Va bene? Tramite la messaggeria ti faccio pure a te. Ciao Teresa, ciao. Un abbraccio, ciao. Bella, ciao, ciao. Bacione a tua figlia, ciao. E Angelo, niente, cioè, aspetta un attimo, che? Okay. Giusto. Angelo? Sì? No, quello praticamente ha fatto cadere la... No, e quello ci teneva tutti quanti Teresa, ma io aggiungo praticamente... Sì, io ti sento, aspetta che aggiungo un po' tutti quanti. Sì? Allora. Vabbè, ma ci tratteniamo poco. Sì, assolutamente. Perché pure io mi sono riuscito qua, perché mi trovo in un punto dove ho potuto, e quindi... Certo, ma aggiungo pure Antonio, seleziona, sì. Ecco qua, adesso siamo tre di noi, ho fatto partire pure la chiamata con loro. Mi senti? Sì. Io sì, ti sento, Angelo. Fabio, ci sei? Fabio, ci sei? Io di Angelo ti sento, Fabio ci sei? Ma non capite, ma non si riesce con Skype, Luigi, non mi sembra strano che non riesca con Skype, no? No, allora mi ha detto così il suo assistente che diciamo, Luigi mi ha detto, l'assistente è Spedito De Martino. Che praticamente, insomma, mi ha detto Luigi, ha detto che Skype lui se lo doveva creare l'account, perché altrimenti teneva la... Andiamo, per esempio, stamattina l'ho fatto pure sul... Dici. Qui Angelo. Fabio, quello, ma, era praticamente caduta una conversazione e praticamente poi, ma poi ti ho aggiunto pure perché ho chiamato prima Angelo. Ma adesso, ma quando fai aggiungi conversazione con la più, dovrebbe aggiungersi automaticamente. Ma per esempio io aggiungo Angelo, no? Cioè lo vedo che sta aggiunto alla conversazione, però cioè non lo Deve vedo. ancora accettare per entrare. Deve accettare praticamente. Mo gli mando il messaggio. Gli è arrivato l'invito su Home Chat, capito? È arrivato pure a me prima. Mo ce lo sto scrivendo. Ecco qua. Mo ci sta pure A te ti Angelo. risulta, Ecco, Giuseppe? adesso entra Angelo, ci sei? Sono arrivati ora qui. Ecco, ma aggiungo anche Antonio, in modo che... Mi sento un po' a pezzi, o non No, siete bene vicini al microfono, non lo no, so. aspetta un attimo. Sento, ma c'è uno Senti, bambino è che bambino di non capisce. Fabio, mo ho inserito Ah, pure... bello, bellissimo. Quella piccina, eh? 18 mesi. Bene, Mo sto scrivendo pure ad Antonio di non sono più accettare. bacini, sono lallazioni, che sono? No, sta giocando, sta con un camioncino e mette il briciolo dentro al camioncino adesso. Bellissimo, bellissimo. Senti Fabio, che dici? No, amore era partito Fabio, era partito che mi stavi tu chiamando. Fabio Vidrone, Vittorio Ricciardi, Angelo Di Prisco stanno chiamando, cioè. Forse stai chiamando con quell'altra chat, Antonio. Con quell'altra chat. E ce l'ho detto di praticamente di inserirsi. Vediamo un po'. Perché mi trovo pure io a chiamare, rispondi. Certo. E ce l'ho detto. Mandagli un messaggio. Ci sto mandando il messaggio ad Antonio. Allora, poi ce lo rimando un'altra volta. Allora, Antonio, Ma non si è fatto male, stava protestando. accetta Ma no, si è l'invito. fatto male. Si è fatto male. Ma che la faccio quando l'ho preso? Stavo proprio La usando mala stupida. Ah, mo non lo vedo neanche, mo non lo vedo neanche in linea. Era caduto forse? È perché Fabio non lo vedo, non, ma mi sta chiamando singolarmente.